Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Come preannunciato ieri, stasera parliamo di eolico, con riferimento in particolare alla possibilità di potenziare impianti eolici datati grazie a componentistica più moderna. Una strada intrapresa anche un po' coraggiosamente, direi, da una società italiana, Eta Blades, che progetta e costruisce pale per turbine eoliche, comprese pale destinate a sostituire quelle dei modelli più vecchi, riuscendo ad aumentarne la produzione elettrica. Un'opportunità che tra l'altro risulta significativa anche in considerazione dei numerosi mutamenti, tutti peggiorativi, sia dal regime regolamentatorio che dal regime fiscale, che si sono abbattuti sull'eolico negli ultimi anni e che mettono a rischio anche parecchi business plan. Allora, buonasera da Maurizio Melis, buonasera anche al nostro ospite, l'ingegner Giovanni Manni, amministratore delegato e cofondatore di Eta Blades. Buonasera Manni. Melis, buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori. Senta, allora, intanto ci spieghi subito come funziona questo processo che porta a ripalare, mi passa il termine maccheronico, una turbina eolica, perché è una specie di, diciamo, di processo su misura. Sì, è sostanzialmente un tailor-made, dove si acquisiscono i dati di partenza, cioè una baseline, che sono i dati caratteristici della turbina che andiamo a ripalare, come dico. E quindi, sostanzialmente, andiamo ad acquisire caratteristiche vibrazionali, carichi, piuttosto che regimi di rotazione. Questi sono gli input per la progettazione della nuova pala, della nuova blade, sostanzialmente. Perché la difficoltà principale è fare una roba che sia più efficiente, ma anche che non comporti dei carichi aggiuntivi non previsti da tutto il resto della struttura, il sostegno, la parte meccanica, no? Che si romperebbe assolutamente, altrimenti. Assolutamente. Quando si va a progettare una pala che deve fare più efficienza, bisogna stare attenti proprio a questo, cioè a realizzare un oggetto in grado di produrre più potenza della pala precedente senza aumentare poi i carichi sul mozzo, sulla macchina e sulle fondamenta della turbina eolica. Ecco, lei diceva più potenza, ma in realtà voi soprattutto producete più energia, cioè la potenza massima della pala, proprio per queste ragioni, resta quella lì. Cosa cambia quindi? Cambia l'efficienza, perché a bassi regimi di vento una turbina X che viene ripalata, ormai abbiamo coniato questo termine. In italiano il termine vero sarebbe reblading, quindi quando ripaliamo una turbina andiamo sostanzialmente ad incrementare l'efficienza del rotore, specialmente nei bassi regimi di vento. Quindi se una turbina eolica produce 1500 kW con 6 metri al secondo, noi possiamo, sostituendo le pale, arrivare a produrre a 6 metri al secondo 1750 kW. La potenza di targa della macchina, cioè la massima a cui lavora, rimane settata dal controllo elettronico della macchina e quindi il parco rimane a, esempio, 2 megawatt di potenza. Solo che in realtà lavorerà un po' più ore, lavorerà meglio durante le ore in cui il vento è leggero e quindi si ha questo incremento di produzione dell'energia che voi stimate, mi diceva, fra 18-25%, dipende ovviamente da quanto è vecchia la macchina e la concezione di progettazione. Senta, ci sono problemi burocratici a mantenere lo stesso regime tariffario dopo il reblading, dopo averle ripalate? Specialmente in Italia è una procedura molto complicata, ci stiamo arrivando. Ci stiamo arrivando. Senta, lei proviene da una forte esperienza come ricercatore e progettista nel settore della vela e la vostra è una storia interessante da questo punto di vista, cioè anche una storia di riconversione industriale. Ci spiega brevemente il punto? Innanzitutto barca a vela e pala eolica funzionano entrambe con il vento e quindi da un punto di vista progettuale sono molto difficili. Le competenze sono quelle lì, fluidodinamica, controllo degli sforzi, eccetera eccetera. Sì. E poi anche materiali e tecniche costruttive si assomigliano, sbaglio? Assolutamente corretto. Noi usiamo una tecnica che si chiama tecnica dell'infusione, ma la ereditiamo dalla nautica e per pale più grandi ereditiamo dalla stessa nautica costruzioni di livello, diciamo, più avanzato tecnologicamente che sono riportate proprio sulle pale eoliche. Quindi anche la manodopera che poi andiamo ad impiegare all'interno dei nostri cantieri è una manodopera che è specializzata in lavorazione di materiali compositi, ha fatto una grandissima esperienza nel settore nautico. Ecco, voi state a Fano, dove tra l'altro, insomma, c'è la crisi che picchia duro. Purtroppo sì. Grazie, sul navale. Grazie alla crisi, questa è una nota dolente, noi abbiamo la possibilità anche di occupare aree industriali già attrezzate per le nostre lavorazioni, che sono investimenti pregressi fatti dalla nautica. Questo facilita il nostro insediamento sul territorio e ci aiuta anche la manodopera, che ovviamente è molto disponibile vista la carenza di lavoro in questo momento nel settore nautico / navale. Grazie Giovanni Manni. Saluti, buonasera. Grazie per essere stati con noi, appuntamento a domani.